Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Ben arrivati le 16:31. Luca Tremolada, Luca Dello Jacopo, buongiorno. Buongiorno. E ora le news. Google progetta un negozio online per le applicazioni dedicate alle imprese. L'obiettivo è di sviluppare evoluzioni dei software offerti su internet in collaborazione con altre aziende. Il modello di riferimento è la vetrina sul web di Apple, ma Google si rivolge soprattutto alle imprese. Il motore di ricerca guadagnerà una parte del ricavato dalla vendita di applicazioni business. Primo aumento per il prezzo massimo dei libri su Kindle, il lettore digitale progettato da Amazon. L'editore Macmillan ha chiesto alla libreria online di vendere i suoi ebook con un incremento del 50% sulla spesa finale. Finora i testi su Kindle non avevano superato il prezzo fisso imposto da Amazon. La Nintendo DS abbatte un mito. Nel 2009 in Italia la console portatile Nintendo DS supera ogni record annuale con quasi 900.000 console vendute, raggiungendo così il primato detenuto da PS2 che resisteva da diversi anni. Nel mondo ad oggi sono 125 milioni di console Nintendo DS vendute. Allora, insomma, torniamo a parlare di un tema, ma tu giochi a Lego? Guarda, da piccolo, però forse non ho ancora rinunciato a giocare. Ecco, perché è un po' questo l'oggetto della puntata. Tra l'altro è stata la prima puntata che noi abbiamo fatto a Nova Lab, parlare di hardware open source, cioè parola terrificante, gente che scappava, di chi sono questi matti che si mettono a parlare di hardware open source, eccoli. E torniamo a parlare oggi perché in un certo senso abbiamo fatto scuola, dai. Sì, e poi ricorda anche un po' l'idea dei Lego, cioè di mettere insieme dei pezzi per costruire qualcosa, quindi di un progetto e dei mattoni che servono per costruirlo e per ingrandirlo. Insomma, quello che sta succedendo, possiamo dirlo tranquillamente, è che sempre più, o no, quantomeno, c'è un drappello di persone che sta cominciando a svelare i segreti degli oggetti, svelare i segreti della tecnologia, svelare un po' il codice, la matrice, come si direbbe su Matrix, di determinate tecnologie. Questo perché? Per permettere a tutti di prendere, montare, creare nuovi oggetti, inventarsi cose, trovare, che ne so, l'iPad italiano, creare l'iPad internazionale, creare nuove cose. E questa idea parte appunto dall'Italia, parte nel caso dell'elettronica con una scheda che si chiama Arduino, che serve per fare le installazioni artistiche, per gestire luci, per gestire anche robot. E quindi voi immaginate delle botteghe artigianali dove ci sono dei designer, degli ingegneri, degli sviluppatori software che lavorano con questi pezzi, assemblandoli per costruire dei progetti. E noi abbiamo appunto raccontato poi nella scheda che dopo sentiremo di alcuni progetti importanti che riguardano il caso delle automobili. Perché, perché dobbiamo sentirla dopo? La sentiamo subito. River Simple è un'automobile grande quanto una Smart, ma alimentata a idrogeno. A differenza di altre, però, i suoi progetti di fabbricazione saranno interamente pubblicati su internet. L'obiettivo è di permettere agli appassionati la modifica delle componenti elettroniche e meccaniche. La macchina River Simple è abbinata a una piattaforma per la continua evoluzione tecnologica e diventa un'officina globale collegata attraverso internet. River Simple è un prototipo dell'Università di Oxford, ma negli Stati Uniti è già in produzione un'altra vettura costruita con i suggerimenti degli utenti. Si tratta di Rally Fighter, sviluppata da un'azienda di Boston, la Local Motors. Anche in questo caso il progetto è condiviso su internet per consentire modifiche personalizzate. Il costo del fuoristrada è di 35.000 euro. Ma non è in vendita negli autosaloni. Bisogna andare a montarlo in officina con l'assistenza dei meccanici. I progetti di River Simple e Rally Fighter sono due esempi di una tendenza emergente tra gli appassionati di tecnologia: disegnare e costruire da soli oggetti elettronici e meccanici. A fare la differenza rispetto al passato è internet. Il web diventa un tavolo di lavoro per accelerare l'innovazione. Dagli Stati Uniti all'Italia si moltiplicano le botteghe tecno-artigianali. Sono piccoli laboratori aperti da designer, ingegneri e sviluppatori software. Hanno in cantiere un'ampia gamma di iniziative. braccia robotiche, circuiti, microprocessori, radio, macchine fotografiche, lettori MP3 e dispositivi per etichette in radiofrequenza. Nel frattempo, mentre andava la scheda dello Jacopo, ha preso un computer, si è messo davanti una tastiera, ha cominciato a smanettare. Cosa stai facendo? Sto cercando un sito che racconta appunto di questi progetti e che ne elenca decine, perché sono partite nel mondo in decine di nazioni queste idee. Il sito si chiama, già te lo anticipo, ArcOpen. ArcOpen, che noi metteremo sul Twitter, e noi parliamo insomma di questi personaggi. Adesso oggi ne intervistiamo un ingegnere, intervisteremo Giuseppe Carignani, che è in collegamento con noi. Buongiorno. Buon pomeriggio a tutti. Allora, spiego un po' perché lei è qui, insomma. Raccontiamo la storia di questi personaggi, perché tutto sommato è anche bello pensare che potremmo accedere a delle tecnologie, a degli oggetti che non arrivano sempre dalle solite quattro grandi multinazionali, sempre dalle solite quattro aziende. Sicuramente questa cosa non farà piacere alle solite quattro aziende, però insomma, perché non allargare l'offerta e le idee? Ma c'è anche un'idea, diciamo, di sviluppo diversa, c'è un'idea di sviluppo allargato, cioè queste piccole aziende di fatto lavorano in simbiosi poi con quelle più grandi, e di fatto c'è una grande cooperazione, soprattutto nel mondo dell'elettronica, perché appunto dispositivi come Arduino permettono poi di sviluppare degli oggetti che si possono utilizzare in molte occasioni, e che sono legati poi al mondo dell'informatica, del software, dove una grande multinazionale non avrebbe tanto interesse a investire, perché per adesso soprattutto sono realtà di nicchia. Sì. Però sono proprio queste nicchie che portano avanti delle innovazioni importanti. Negli Stati Uniti c'è un professore che sta studiando questi fenomeni, che si chiama Eric von Hippel, e sta raccontando l'idea dell'innovazione aperta, cioè l'innovazione non è più qualcosa che avviene nei laboratori, nel chiuso, ecco, di una stanza magari sottoterra, ma è invece qualcosa che si fa su internet, si fa in modo pubblico, perché solo mettendo su internet i progetti questi possono essere messi in discussione, cambiati dalle comunità. Sì, è ovvio che vale solo per qualcuno e non può valere per tutti. Certo. Diciamo che c'era un'immagine di questi grandi laboratori, centri di ricerca, con le persone col camice bianco fisse a guardare una lavagna, a scrivere equazioni. In realtà queste ci sono ancora, però c'è anche tutta una sperimentazione che nasce dal basso, nel senso che poi, parlando con anche le grandi multinazionali, ti dicono: guardate che le idee più brillanti, questo mi era capitato con IBM, le idee più brillanti arrivano dal commerciale, cioè non arriva dal centro ricerca, ma dal commerciale, che magari parlando con il cliente gli dice: ma sai, mi è venuta un'idea, si potrebbe cambiare questo circuito in questo modo per rispondere a queste esigenze. Insomma, questa cosa qui crea poi magari dall'input al centro di ricerca che ti esplode, ti crea il nuovo oggetto. E tra l'altro anche una ricerca dell'Università di Harvard dice appunto che su una piattaforma di innovazione che si chiama Innocentive, che raccoglie delle idee, delle sfide, si è visto che quelli più abili a risolvere queste sfide spesso sono persone che non appartengono al settore specifico della sfida tecnica posta. Quindi diciamo che le soluzioni più originali spesso sono trovate da persone che non appartengono ad un settore specifico, ma che comunque poi in questo caso hanno una formazione scientifica molto solida conquistata sul campo, diciamo. Ecco, noi ce la stiamo raccontando, stiamo cantando, facendo tutto noi, ma in realtà abbiamo in collegamento Giuseppe Carignani, e raccontiamo in una scheda di Luca Dello Jacopo che cosa fa e dove vuole andare. Progettare una bicicletta per pedalare sull'acqua. Ogni parte può essere modificata con il contributo di appassionati e aziende specializzate. La proposta è stata avanzata da Giuseppe Carignani, ingegnere ricercatore indipendente dell'Università di Udine. Dopo la laurea, Carignani ha lavorato come consulente con aziende locali. Due anni fa decide di rientrare in accademia e frequenta un master presso l'Ateneo Friulano. Le sue ricerche convergono sulla bicicletta d'acqua. L'idea è di immaginare modifiche ai disegni tecnici originari con il sostegno della community. Un'azienda friulana fabbrica un prototipo, il progetto Waterbike approda su internet. In breve tempo, imprese e appassionati inviano suggerimenti per ulteriori sviluppi. Presto sarà disponibile un software per contribuire all'evoluzione della bicicletta d'acqua. Allora, Carignani, com'è nata questa bicicletta d'acqua? Cioè, chi l'ha pensata? Beh, l'idea non è certo nuova, la bicicletta d'acqua è un prodotto che esiste da oltre 100 anni. Quello che è nuova è la possibilità di svilupparla sul web. L'idea è nata più o meno 3 anni fa nell'ambito, come dicevate nella scheda, del mio dottorato di ricerca che io ho svolto presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica Gestionale Meccanica all'Università di Udine, nel gruppo di ricerca di ingegneria gestionale. A me piaceva molto occuparmi di innovazione e la nuova frontiera in quegli anni e tuttora era l'innovazione collettiva sul web, in particolare dei prodotti fisici, cioè dei prodotti tangibili, perché mentre tutti abbiamo esperienza diretta con Wikipedia, tutti conosciamo Linux, si tratta però di prodotti intangibili che possiamo trasferire direttamente dal web. Quando abbiamo a che fare con prodotti fisici abbiamo l'esigenza di... Ma forse è il motivo anche perché non si trovano al supermercato? Certamente, questo è uno dei motivi. In effetti non tutti i prodotti fisici probabilmente sono sviluppabili sul web. All'epoca si era cominciato a studiare l'argomento qui all'Università di Udine, al laboratorio gestionale in particolare, e però ci eravamo accorti che per capire come, se la cosa funziona o non funziona, l'unico modo è provarci. E quindi il progetto Bicicletta d'Acqua è un po' ricerca e un po' coazione, per così dire. Ecco, ci spiega bene che cos'è una bicicletta d'acqua, perché non credo che molti ne abbiano usata una. Certamente, questa è un'ottima domanda, io a volte do per scontato che si sappia cos'è, ma non è per nulla scontato. Una bicicletta d'acqua è esattamente quello che dice il nome, cioè un mezzo di trasporto, è un mezzo sportivo che funzioni sull'acqua in modo analogo a come la bicicletta funziona sulla terra. Pedalò. Cioè, pedalò no, non, sì. Non si può assolutamente chiamare pedalò. No, è una cattiveria. È naturale che è una cattiveria, certo. Non si può chiamare pedalò perché si tratta di imbarcazioni ad alte prestazioni. Nessuno andrebbe in giro a fare una passeggiata in campagna con un risciò di quelli che si usano al mare, e così nessuno andrebbe a fare attività sportiva su un pedalò o attività di turistica o addirittura commuting, come a volte si fa con la bicicletta. Quindi quindi prendete un po' le distanze dal pedalo classico. Assolutamente. No, va bene, grandi distanze. Non confondiamo gli ambiti. Perfetto. Il viaggio più lungo che avete fatto con la bicicletta d'acqua? Abbiamo partecipato alla Voga Longa più di una volta. E la Voga Longa è una gara non competitiva che si svolge nella Laguna di Venezia. 35 chilometri circa. E in quanto si va con la bicicletta d'acqua? La velocità va dai 6 agli 8 nodi, dipende dal pedalatore, si parla di circa 11 chilometri all'ora. Insomma. Sembra poco, ma si va da qualche parte. Allora, io mi fermo per ora, perché poi voglio capire qualcosa di più, perché tra l'altro 11 nodi, andiamo a vedere subito sul computer. Sei nodi, perché io stavo scatenando già dello Jacopo per cercare di capire quanto cavolo fa questa bicicletta. Nova Lab 24. Allora, stiamo parlando di biciclette d'acqua. No, non stiamo parlando di quello, stiamo parlando della capacità di creare, di sviluppare, di immaginare componenti nuovi per le biciclette ad acqua, e quindi cioè anche di capire come si possono modificare i pezzi di un progetto, stando anche da casa disegnando, fornendo delle idee. Tra l'altro Carignani dello Jacopo è andato a vedere su internet, ha detto che sembra un pedalò. Però vabbè, lasciamo andare. Però insomma, il tema vero qual è? Che insomma, da un'idea, cioè pedalare sull'acqua senza chiamarlo pedalò, che cosa è successo? Che delle aziende, da quello che ho capito, hanno contribuito, cioè stanno fornendo spunti. Certamente. Per noi la bicicletta d'acqua, in effetti, dal punto di vista della ricerca, è un esempio di una serie di prodotti che è possibile, che riteniamo possibile sviluppare in questo modo. Abbiamo scelto la bicicletta d'acqua, poteva essere un altro prodotto. La bicicletta d'acqua ha il fascino di essere un prodotto che da 100 anni si cerca di realizzare. Nel 1895 si pensava che diventasse popolare come la bicicletta da terra, questo non è successo. È proprio la differenza tra l'invenzione e l'innovazione. Noi stiamo cercando di vedere se è possibile fare innovazione collettiva. Che non sarà metterci un motore l'innovazione, no? Perché altrimenti entriamo nel motostinto, un piroscopo. No, l'innovazione dove sta in questo caso? Diciamo che il motore dell'innovazione, per usare le vostre parole, è quello di rendere, di partire con un prodotto modulare che, come si diceva prima, è una specie di Lego diviso in diverse parti e ciascuna parte può essere sviluppata e anche innovata in modo indipendente. E quali sono le componenti che sono più facili da modificare o su cui avete avuto degli spunti, ecco? In questo caso le componenti critiche sono la trasmissione e l'elica, che sono le parti che differenziano la bicicletta d'acqua dal pedalò e la rendono così di elevate prestazioni. Quando il progetto è partito, quasi 2 anni fa, all'inizio la partenza era stata molto in salita, era stato accolto con una certa freddezza, anche con una certa ostilità dagli esperti che si confrontano nei forum. Poi sono successe 2 cose. Da un lato abbiamo avuto delle proposte di grandissimo interesse, una in particolare da parte di un professore dell'MIT, un professore di aeronautica e astronautica, che ha progettato e ha addirittura realizzato all'MIT una trasmissione molto semplice ma particolarmente efficiente, che potrebbe essere davvero una svolta nelle biciclette d'acqua. Ecco, spieghiamo questo passaggio, perché non ci guadagna nulla, no? Questo è un punto molto interessante, infatti molti di coloro che collaborano ai progetti di innovazione aperta non ci guadagnano nulla apparentemente, in realtà spesso ci guadagnano delle cose che non sono monetarie, tipicamente la reputazione è un motore di propulsione di Wikipedia, cioè, di Linux. Spieghiamo, nel senso che nel momento in cui io metto il mio nome su quel dato componente o su quel dato accessorio, in qualche modo segnalo a tutto il mondo del lavoro che sono bravo a inventare. Esattamente, e questo meccanismo può funzionare anche, a nostro parere, nell'ambito dell'open hardware. In questo caso il professore dell'MIT evidentemente non ha una gran reputazione, in questo caso lo ha fatto semplicemente per il piacere di rendere pubblico una cosa, di contribuire a un progetto che lui ritiene in qualche modo giusto, in qualche modo affascinante, cioè quello di far decollare un prodotto, un mondo, diciamo così, un sogno da certi punti di vista che lui condivide. E questo progetto, che è un progetto assolutamente interessante, è stato pubblicato sul sito e adesso ci sono alcune aziende che stanno facendo dei prototipi. Ecco, ma voi dividerete i profitti con qualcuno? Cioè, com'è che invece funziona il business dal vostro punto di vista? Certo. Allora, il problema appunto del modello di business è un problema centrale, naturalmente, ed è un problema tuttora irrisolto, cioè chi ci guadagna nel fare questo tipo di cose. La nostra idea è che non esisterà un prodotto bicicletta d'acqua gestito da un'azienda centralizzata. Qui l'idea è che il prodotto stesso generi attorno a sé l'organizzazione che poi lo realizzerà e che le singole piccole aziende o addirittura i privati possano essere in grado di realizzare, costruire, vendere e commercializzare la bicicletta. Fino a che il prodotto non si affermerà, quindi non ci sarà alcun tipo di profitto per chi gestisce il sito. D'altra parte i costi di avviare un progetto del genere sono molto molto modesti. Nel momento in cui il prodotto si affermasse, naturalmente esistono tutta una serie di meccanismi per cui chi gestisce il sito e ha a disposizione una certa quantità di traffico, nonché naturalmente la conoscenza per costruire, ma soprattutto per innovare l'oggetto, potrà trovare una serie di meccanismi. Sì, ecco, quindi voi in effetti avete pensato di costruire una piattaforma tecnologica dove poi si potrà sviluppare la bicicletta d'acqua. Di fatto, se ho capito bene, la cosa importante è la centralità rispetto poi alla discussione, cioè quante più persone poi si interessano a questo progetto, tanto più è probabile che faranno poi delle modifiche e tanto più è probabile che riusciranno poi a sviluppare con voi delle nuove opportunità adatte poi a contesti diversi, come anche nel caso della macchina che il River Simple che abbiamo ascoltato prima. Sì. C'è ancora una cosa più interessante a mio parere, e cioè il fatto che noi qui stiamo parlando di un prodotto che di fatto non esiste, esistono dei prototipi naturalmente. La cosa interessante è che noi vediamo contemporaneamente il lato offerta, che è quello di cui sempre si parla dell'innovazione tecnologica, ma anche e forse soprattutto il lato domanda. Noi la maggior parte dei contatti vengono da persone, ma anche da aziende che sono interessate a questo nuovo prodotto. Faccio alcuni esempi. Una catena di alberghi delle Maldive mi ha contattato dicendo che loro sono molto interessati a questo prodotto e soprattutto dandomi una serie di indicazioni che sono diventate poi dei requisiti che noi abbiamo pubblicato. Quindi, mentre le aziende hanno grosse difficoltà a capire che cosa vogliono i clienti, noi abbiamo la possibilità di capire in molto in dettaglio che cosa vogliono i nostri potenziali clienti prima ancora di avere il prodotto. Quindi, per quanto riguarda invece i potenziali costruttori, cioè com'è che io posso suggerire un manubrio strano, un manubrio diverso, un campanello particolare? E questa è il fronte, diciamo così, dell'offerta, è quello su cui noi proprio in questo periodo, come nella scheda, stiamo cercando di sviluppare un software collaborativo per cui uno si collega da internet e da lì presenta il progetto, l'idea, insomma. Sì, questo già succede, nel senso che anche con, diciamo, su internet è facile scambiarsi i documenti. Perfetto, io la ringrazio, Luca Dello Jacopo. Pubblicheremo qualche indirizzo per, insomma, capire come funziona. Tu proporrai un'idea? No, non la propongo, però me lo riservo per una prossima occasione. Se non la propone Dello Jacopo, non la propongo neanche io. A domani.